scivolo sull'erba dei campi, onde su onde i desideri, e sogno di averti al mio fianco. Ma segno la mia zona, giunto nella delle cose non dette fra noi, e le carezze ai confini. Scivola la mia mano sui fianchi, io cerco amore coi soli pensieri, e cado nei tuoi occhi salati. Poi richiami perché io gioco con le parole, sai come va, difendo la mia zona, e sto solo coi miei pensieri. Noto nell'erba e passa il silenzio in mezzo a noi. Sono l'animale che parla da solo col vento. Segno il mio confine, questo è il mio limite. Preferisci un'altra illusione alla realtà. Io so parola come coriandoli ti spini. Questo è il mio confine, un autolimite, di animale di zona. La prossima è una canzone che vorrei dedicare a un grande del nostro sport italiano, un certo Marco Pantani, che nonostante tutte le sfighe gli sono occorse nella vita, vero, nel quotidiano, ma anche non solamente, è riuscito a reagire, a far vedere che comunque uno il destino se lo decide anche con le proprie mani.